ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Europa, Europa! L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. È terminato con un nulla di fatto a Bruxelles l'ennesimo round negoziale tra Parlamento e Consiglio dedicato al bilancio comunitario 2021-2027, a cui è associato un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, soldi che saranno raccolti sui mercati finanziari a nome dell'Unione Europea. Nella serata di giovedì 8 ottobre le parti si sono accusate a vicenda dello stallo. Le trattative dovrebbero riprendere la prossima settimana, né al Parlamento né al Consiglio, probabilmente. Conviene trascinare un negoziato su un pacchetto legislativo da cui dipende la ripresa economica. Con noi Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda. Buongiorno, grazie. Prima domanda, bilancio UE e fondo camminano per forza insieme? Temo di sì, credo che questa sia la risposta più rapida e più veloce. In realtà i due strumenti, il bilancio e il fondo, hanno due basi legali diverse. Il bilancio deve essere approvato sia dal Consiglio che dal Parlamento, il fondo deve essere approvato solamente dai governi, dal Consiglio. Il problema è che il fondo, che ha un ammontare totale di 750 miliardi di euro, vede una parte di questo ammontare confluire nel bilancio comunitario, circa 100 miliardi più o meno. Il risultato è che i due strumenti sono legati in un modo o nell'altro l'uno all'altro, e aggiungerei anche il fatto che il fondo per la ripresa è naturalmente urgente, ma non vi è una scadenza politica o giuridica, mentre per quanto riguarda il bilancio comunitario questo dovrebbe entrare in vigore sperabilmente il 1 gennaio del 2021, perché in quel momento scade il bilancio attuale, quello cominciato nel 2014. Beda Romano, chi governa il fondo? Il fondo è governato in due fasi. La prima fase è quella in cui i governi nazionali presentano un piano della ripresa, un piano che deve essere visto, analizzato dalla Commissione e approvato dal Consiglio dei Ministri delle Finanze. Questa è la prima fase del governo del fondo. La seconda fase è quando si tratta di sborsare il denaro per singoli progetti. E in questo caso la scelta è nelle mani della Commissione, è la Commissione che decide di sborsare il denaro, sentito tuttavia il Comitato Economico Finanziario, che raggruppa i direttori dei tesori nazionali. È un comitato che prepara tecnicamente le riunioni ministeriali dei ministri delle finanze. In questo caso il Comitato Economico e Finanziario verrebbe chiamato a valutare se l'esborso può avvenire o meno. Quindi espressione dei governi, ma in sede di Bruxelles. Dal punto di vista degli stati, cosa si deve fare per ottenere il denaro? I governi stanno lavorando tutti a un piano per la ripresa, lo definirei in questi termini. Sanno già quanto denaro dovrebbero recuperare dal fondo per la ripresa, stanno quindi mettendo a punto i vari progetti, stimando la necessità di denaro. Questi piani devono essere tendenzialmente presentati in ottobre, almeno una loro prima bozza, e poi successivamente il piano definitivo deve essere presentato entro aprile. A quel punto la Commissione valuterà i piani, valuterà la bontà dei progetti, darà il proprio benestare, chiederà il benestare al Consiglio dei Ministri, e a quel punto l'intero impianto può cominciare a funzionare. E nella migliore delle ipotesi, quando gli Stati potranno ricevere i soldi? Si può presumere che una prima somma di denaro potrebbe arrivare a maggio, inizio giugno, circa il 10% del totale del denaro allocato al singolo paese. Il governo Conte ha una lista molto ricca, oltre 500 piccoli e grandi progetti che potrebbero essere finanziati, tra l'altro con i 209 miliardi di cui di fatto abbiamo parlato con Beda Romano, ma non sembra avere una visione ancora organica per capire quali interventi scegliere affinché l'Italia del 2030 sia più verde, digitale, competitiva. Già, perché essere più verdi, digitali e competitivi è esattamente quello che la Commissione UE, targata Ursula von der Leyen, ha chiesto fin dall'inizio e si è impegnata a sostenere. Silvia Bernardi ne ha parlato con Enrico Giovannini. Dopo la globalizzazione e la digitalizzazione, l'Europa si prepara a una terza grande sfida: trasformarsi in un'economia pulita e circolare per ridurre l'inquinamento, fermare i cambiamenti climatici senza tuttavia tagliare posti di lavoro, anzi aumentando il benessere delle famiglie. L'Europa si è candidata così a diventare il primo continente a impatto zero e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato il Green New Deal, un patto verde da 1.000 miliardi per la carbon neutrality. Ne parliamo con l'ex presidente dell'Istat ed ex ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta, oggi portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini. Professor Giovannini, allora partiamo dalle basi, cerchiamo di capire che cos'è il Green New Deal, da dove inizia e quali sono gli obiettivi. Il Green New Deal è un nuovo modo di immaginare l'economia, più integrata con l'ambiente, ma anche più rispettosa dei diritti sociali. È una strategia di crescita, non quindi di decrescita, più o meno felice. È una strategia che l'Unione Europea propone a tutti i propri Stati membri per riuscire a rilanciare il sistema economico, ma trasformandolo in senso ecologico e quindi attraverso l'economia circolare, con il riuso di materiali, attraverso l'eliminazione delle energie non rinnovabili, attraverso l'innovazione. Insomma, un programma a tutto campo. Allora, per questo programma a tutto campo e per immaginare questo nuovo futuro green dell'Europa servono sicuramente delle risorse. Quali soldi ci sono sul tavolo e da dove vengono? Il Green New Deal è stato lanciato a dicembre, quindi prima della crisi, ma certamente è al centro dei nuovi piani di ripresa e resilienza finanziati dal fondo Next Generation EU, che proprio in queste settimane tutti i paesi stanno preparando. Quindi ci sono quei 209 miliardi famosi del piano, appunto, Next Generation EU, in cui il 37%, quindi circa 77, devono andare alla lotta al cambiamento climatico, ma poi ci sono altri miliardi per il cosiddetta transizione giusta, e cioè per aiutare le imprese e gli stati a convertire ad esempio le centrali a carbone, e poi abbiamo di nuovo fondi per le piccole e medie imprese per andare verso l'economia circolare. Insomma, un insieme di risorse mai viste nella storia recente, che però devono essere rese coerenti con i fondi nazionali. E qui sta il tallone d'Achille dell'Italia, che da molti anni non fa programmazione a medio e lungo termine. Oggi siamo di fronte alla necessità di disegnare l'Italia e l'Europa del 2030. Digitalizzazione, transizione ecologica, eliminazione delle attività più inquinanti non sono cose che si fanno mettendo vicino un progetto accanto all'altro, anche perché se dobbiamo rendere coerenti i fondi della Next Generation EU con gli altri che abitualmente ricevono le regioni, è necessario fare sì uno sforzo comune di coprogettazione tra Stato, regioni ed enti locali. Una buona notizia c'è, ed è che ci sono già molte imprese orientate in questa direzione e che si stanno trasformando nel senso di un'economia circolare, anche perché non è solo utile, ma conveniente. Ci sono opportunità reali per un'accelerazione in questa direzione. Nel corso dei prossimi appuntamenti dedicati all'Europa andremo a conoscere da vicino le voci di chi è passato dalle parole green ai fatti. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie anche a Silvia Bernardi. Adesso cambiamo argomento. Secondo lo European Trade Union Confederation, dunque i sindacati europei, saranno necessari altri 84 anni per colmare la differenza salariale, attualmente pari al 14,8% in Europa. In Italia la parità si avrà nel 2074. Sarà il 2104, vale a dire l'era dei nostri nipoti, quando uomini e donne in Europa vedranno la parità retributiva. Non che sia una novità, considerato che il dato viene ribadito periodicamente, ma è proprio questo il problema. Con gli anni non c'è stato un cambiamento di passo che avvicini salari equi fra colleghi. A fotografare la situazione è una ricerca del European Trade Union Confederation, che mette in evidenza il ritardo della Commissione europea nel sanare la situazione. La differenza di busta paga fra uomini e donne si è ridotta solo dell'1% negli ultimi 8 anni, il che significa che le donne aspetteranno altri 84 anni per raggiungere la parità di salario. Ma quanto guadagnano in meno le donne rispetto ai loro colleghi? Secondo Eurostat il 14,8% in meno. In Italia il dato risulta più contenuto, solo il 5%, ma in realtà è così basso perché non tiene conto di altre variabili, come ad esempio l'occupazione femminile che resta sotto il 50% e il fatto che difficilmente le donne in Italia riescono a fare carriera. Comunque, continuando di questo passo, vedremo la parità salariale solo nel 2074. In Parlamento, nel tempo, non sono mancate le proposte di legge in questa direzione. Eppure ben poco sembra muoversi su questo fronte, anche perché le priorità, dopo il post-Covid, sembrano ben altre. Riguardo alle donne, la prima preoccupazione è quella di fermare la loro uscita dal mondo del lavoro a seguito dell'aumento dei carichi di lavoro familiari. Proprio per questo, a più riprese, il governo ha sottolineato la necessità di inserire il lavoro delle donne fra le priorità del piano del Recovery Fund. I temi di occupazione femminile e differenza salariale preoccupano anche le aziende, tanto che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha richiamato gli imprenditori a fare la loro parte per cambiare la situazione. Monica D'Ascenzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa Europa ritorna tra poco, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Europa Europa. Ancora un ben ritrovati, un buongiorno a voi da Gigi Donelli, Alessandro Schirano, da Paolo Corleoni, da Valeria Bernardi in regia. Adesso una notizia che riprendiamo dalla metà della settimana. Il leader di Alba Dorata, Nikolaos Mikalokaikos, è a capo di un'organizzazione criminale. Questo ha dichiarato il Tribunale di Atene al processo, che ha tra l'altro condannato un membro del partito neonazista greco Alba Dorata per l'omicidio di un rapper antifascista di 34 anni avvenuto nel 2013. Georgios Roupakis, militante di Alba Dorata, è stato condannato per l'omicidio di Pavlos Fissas, il rapper greco ucciso con 2 coltellate al cuore nel 2013 al Pireo. Condannato anche Nikos Mikaloliakos, leader del partito di estrema destra, che all'epoca era la terza formazione politica greca. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di aver guidato un gruppo criminale. Così è stata definita dal Tribunale di Atene Alba Dorata. Dopo 5 anni e mezzo di processo è dunque arrivata la sentenza, attesissima nel paese. Davanti al Tribunale di Atene, infatti, presidiato dalla polizia, questa mattina c'erano 15.000 persone in attesa del verdetto. Dopo l'annuncio, oltre alla gioia dei manifestanti, sono scoppiati incidenti con la polizia, che ha dovuto disperdere con i lacrimogeni e gli idranti la folla. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, è stata inserita questa settimana nella lista dei ricercati in Russia. La principale candidata dell'opposizione bielorussa alle presidenziali del 9 agosto sarebbe accusata di appelli ad atti diretti contro la sicurezza nazionale. Sempre questa settimana, è accaduto giovedì, il vice cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato la Tikhanovskaya a Berlino, definendola una coraggiosa combattente per la democrazia e i diritti civili nel suo paese. Allora, a 2 mesi di fatto dall'inizio di questa crisi, lo ricordo, il voto alle presidenziali era il 9 agosto, quindi poco più di 2 mesi fa, ne parliamo con Pier Francesco Maiorino, europarlamentare per il Partito Democratico dal 2019, membro della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Ci troviamo di fronte a una evidente spirale autoritaria, a una rottura delle regole democratiche e alla necessità quindi da parte dell'Europa, come il Parlamento Europeo ha affermato, io credo in maniera molto significativa, il 17 settembre scorso con una risoluzione, di non mollare assolutamente la presa. Non possiamo accettare che Lukashenko sviluppi la sua azione indisturbato, perché è un'azione che porta con sé repressione, arresti, ombre sul piano della gestione del rapporto con l'informazione, con la libera informazione, e quindi il tema credo che sia quello di ricordarsi che la Bielorussia deve essere accompagnata dall'Europa verso un cammino democratico senza alcun tipo di titubanza. Ecco, accompagnare, qui viene la mia, diciamo, prima vera mia domanda. Abbiamo dei precedenti. Qual è il giusto modo, perché come dire, condividiamo in pieno il principio che lei ha descritto, non possiamo permettere che Lukashenko o chiunque all'interno di uno spazio europeo e mondiale faccia ciò che vuole, però poi bisogna passare a delle azioni, e questo rende tutto un po' più complicato. Per i nostri ascoltatori ricordo che il passo attuale sono delle sanzioni personali, cioè non allo Stato. Sì, si è adottata la strada delle sanzioni personali in ragione del non voler colpire la società civile essenzialmente, e dunque si stanno colpendo tra virgolette alcuni uomini del regime. Cosa fare? È chiaro che il tema è bene, detto questo, esattamente. Intanto il punto è di decidere di prendere questa strada, perché lo dico senza volerla buttare in polemiche italiane, però non tutti, ad esempio, in Italia sono d'accordo su questo, visto che la Lega di Salvini ha deciso di astenersi in Parlamento europeo per non andare contro Putin, posso dirla, perché è evidente che lì c'è l'ombra, la pressione di Putin, e la Lega non vuole fare un fastidio, non vuole dare un fastidio a Putin. E anche a livello europeo, a questo punto, non dimentichiamo che ci sono paesi come Polonia e Lituania che sarebbero per sanzioni molto più dure, e altre come Ungheria e Cipro che invece temono moltissimo. Ora, sono tutti interessi legittimi, quindi, ed è questa veramente la questione, direi. Ma io credo che noi dobbiamo partire dal fatto che il tema del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani è un tema cruciale su cui l'Unione Europea deve insistere sempre, al proprio interno e all'esterno di essa. Laddove siamo di fronte a paesi confinanti europei nei fatti, e perfino laddove questo non accade, peraltro. In questo caso, dunque, la strada delle sanzioni individuali è un pezzo di una strategia che deve proseguire. Il Parlamento europeo ha da subito dichiarato di non riconoscere l'esito elettorale, quindi di non riconoscere la presenza di Lukashenko come capo del paese, e questo è un atto anch'esso non banale, ovviamente. Certo. Bisogna andare avanti e insistere, quindi pressing, sta dicendo Maiorino, ovviamente si sta facendo un pressing di carattere diplomatico. Mi sento di dire, io sono poi anche molto, a volte molto critico su come l'Europa non ha reagito, ad esempio sui diritti umani in Egitto, per dire, per me siamo incredibilmente lenti, ma in questo caso invece mi sento di dire che c'è stata una reazione significativa. Quindi non riconoscerne l'esito, non riconoscere quello che sta accadendo, non è, come dire, una battuta per i giornali europei. Chiaro. O per fare due chiacchiere alla radio, è un atto poi formale, ecco, diplomatico, molto impegnativo, vuol dire non c'è per noi lì oggi un governo vero delle cose, perché non c'è la democrazia. Completiamo oggi questa puntata parlando di un altro organismo dell'Unione Europea, parliamo del CESE, il Comitato Economico e Sociale, il suo ruolo in un momento in cui naturalmente la governance economica è al centro più che mai del tema politico. Ne parliamo, ci racconta appunto il lavoro e anche quale è l'orientamento dato dal CESE, Tommaso Di Fazio, che è membro italiano appunto della Commissione. Sentiamolo. Il Comitato Economico e Sociale Europeo è la Camera delle istituzioni europee consultiva di tutte le organizzazioni europee, e soprattutto della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, che dà pareri in merito a tutta la normativa che viene emanata, e viene consultato appositamente. Siedono in questo comitato tutte le forze sociali e i rappresentanti della società civile. Cosa significa quando voi chiedete punto di svolta e non ritorno alla normalità? Beh, allora, parliamo di questo, che è stato nei tempi, negli anni passati, il vero dolore, spauracchio, possiamo dire, in tanti paesi europei. Il patto di stabilità e crescita nasce con la crisi del 2008-2011 ed è una serie di norme piuttosto stringenti sul debito che deve rientrare entro parametri, e come sappiamo anche in Italia questo ha limitato fortemente i nostri investimenti. Quindi noi sosteniamo che è opportuno rilanciare la crescita e è opportuno anche avere la stabilità, ma privilegiando prima la crescita. Grazie dunque anche a Tommaso Di Fazio di essere stato con noi, e tutto per questo appuntamento. Adesso tutti gli aggiornamenti sulle notizie in GR24. Grazie ancora a Valeria Bernardi in regia, ad Alessandro Schirano in assistenza come sempre, da Gigi Donnelli e da tutti noi un saluto, ci risentiamo la prossima settimana. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.